Na radio al teatro. Signore e signore, siete pregati di spegnere il cellulare perché sta per iniziare lo spettacolo. Ci siamo? Non sei il cellulare. No, un po' più forte questa. Questo invece è. Allora, buonasera a tutti quanti, siamo arrivati alla seconda puntata di Jazz al Teatro, qui per voi, stasera, Jazz al Teatro, sono con noi un gruppo di loro, si chiamano gli Opracina. Che ha detto? Opracina. Ma non si dice Opracina? Si dice? Opracina! Scusate, ho tutto sbagliato, direi che vado dall'inizio, qui a Teatro Faione, Jazz al Teatro, gli Opracina, organizzato tutto quanto da un'altra Radio Roma. Ma che ha detto? Un'altra Radio Roma. Abbiamo detto di parlare in italiano, ma non è, quello è il nome della radio, si dice un'altra Radio Roma! Scusate. Diamo anche un saluto a Paolo Romani, Pasqualini, Baldini, buonasera. E poi stasera a Jazz, a Teatro, a Torre, organizzano un'altra Radio Roma, per Punta Roma, Opracina, Jazz, Band, sigla! Aspettate, si prego di spegnere i cellulari. Signori e signore, un'altra Radio Roma in collaborazione con il Teatro Faranum presenta Jazz al Teatro. The season of Jazz and Theater. In collaboration with Panne, un'altra Radio Roma, ascolta si schiva da Faranum, c'è stato Jazz al Teatro. A jazz artist under Creative Commons license. We hope you a nice evening. Un'altra Radio Roma, in diretta radiofonica dal Teatro Faranum di Ostia Lido Roma, trasmette Jazz al Teatro. Un'altra Radio Roma, in collaborazione con il Teatro Faranume, presenta Jazz al Teatro. Un'altra Radio Roma, Jazz al Teatro. Un'altra Radio Roma, Jazz al Teatro. Un'altra Radio Roma, Jazz al Teatro. Un'altra Radio Roma, allora ti dicevo, ci vieni al teatro a sentire il jazz? Jazz al Teatro? E di che si tratta? Si tratta dell'evento curato da un'altra Radio Roma e si svolgerà al Teatro Faranum. Ne parlano ormai tutti, ma in che mondo vivi? Perché noi portiamo un altro modo di vivere la musica, sono Creative Commons. Vabbè, allora Jazz al Teatro, musica sotto licenza Creative Commons, qui al Teatro Faranum. Bravo, oh, tutti i lunedì alle 21. Jazz for you, jazz for us. Music as you are. stiamo ascoltando Sixa Terza 5. applauso a mio fratino. Credo che abbiano avuto qualche problema tecnico sul palco e probabilmente con la chitarra, e il loro pezzo, che è veramente splendido, ha perso un po' di della sua fluidità, purtroppo, ma probabilmente nel bis gli chiederemo di ripartire di nuovo con questa traccia. Problemi tecnici ancora. Stanno partendo con la prossima traccia, My Vals. Loro sono il duo Prachina. E gustatevi questo pezzo. Thank you. emozionante My Waltz degli Oprachina. Hanno molto scaldato l'ambiente e stanno adesso facendo partire il loro prossimo pezzo che si chiama Fat Fast. Oprachina, Massimo Bognetti, Enrico De Fabrizis, Fabio Fochesato e Andrea Galinari. La loro musica è eccitante e vi lasciamo sotto le loro note. Fat Fast. Questo ragazzi è un pezzone da paura. Solo del maestro Massimo Bognetti. Thank you. elettrizzante Vopracina sull'Altra Radio Roma al Teatro Faranume. Il loro concerto è veramente elettrizzante. Si stanno preparando per la prossima traccia e nel frattempo volevo presentarvi alcuni dei componenti del gruppo, cominciando appunto dal maestro, ma non faccio un tempo in quanto sta partendo il prossimo brano, che si intitola, come dice appunto il sassista, Tuttavia, un inedito. Agghiacciante, mareale. Un applauso per gli operachine che sono qui di fronte a noi. Un'altra radio Roma. Enrico il sassofonista sta presentando il gruppo, adesso anche Enrico De Fabrizio si viene presentato da Fabio Pochezzato al contrabbasso. No, non puoi parlare perché hai le patatine in bocca. Mi sto a mangiare una patatina, qui al teatro non si possono portare i popcorn. E vai col tango. Thank you. Perfetto, perfetto, perfetto. Abbiamo ascoltato Tuttavia, un inedito, chiudi il sipario che c'è una pausa. Che bellissima situation. Chiudi il sipario. Quindi qual era il passo del sipario qua? Accendiamo le luci in sala. Ok, ecco qua. Ok, ok, ok. Voglio farmi sentire in sala un secondo. Per ringraziare Francesca di Francesco Claudia. Allora siamo qui negli studi di un'altra Radio Roma mobile perché siamo al Teatro Faranume. Oh oh oh. Pronto, pronto. Continuiamo a fare prove, ma non si sente nulla. Volevo far ripartire il teatro, ma non ci riesce. Ah, che fai? Certo. Ecco il loro ballo proprio a non fare tanto l'imbecille. È aperto a metà YouTube. Forza! appena finito il pezzo Maria J, era un duo, chitarra e basso. Adesso risale sul palco il batterista e si parte con il nuovo pezzo. Le cose non sempre vanno come si suppone, debbono andare. Buon ascolto da un'altra Radio Roma. We'll be right back. applausi al sole del maestro. Ecco a voi adesso The Moon in the August. Loro sono Io Prachina su un'altra Radio Roma. Fantastica psico band jazz. Ed è così che qui a un'altra Radio Roma ci stiamo adoperando per continuare queste dirette. Sono veramente contenti di questo ringraziamento pubblico fatto da Dio Prachina. Ci prepariamo per il continuo del concerto, dove si sta per iniziare ad andare avanti con il brano che poc'anzi vi ha presentato Mr. Campo, che è appena iniziato. Abbiamo appena ascoltato l'At degli Uprachina. Allora, il concerto sta andando avanti e lei che cosa ne pensa, Mr. Cocot, di questo evento così spettacolare? Penso che bisognerà cambiare tutto di questa radio. Veramente, io non ce la faccio più. Thank you. Qui a un'altra radio di Roma. Vorrebbe qui Cocotte prendere il microfono, io non ve lo consiglio ma glielo lascio. Adesso ragazzi ci sarà una cosa bellissima, bellissima. Ci sarà un pezzo chiamato Grigio Scuro, sarà un duo. Non sentite Campo. Adesso, come dice Campo, si prepara il sassista alla sinistra del suo palco e alla destra del nostro palco. Un applauso fragoroso e molto spontaneo dalla parte del pubblico per questo quadruplo salto mortale del batterista sulle bacchette. Spettacolare, ragazzi. Il bassista sta annunciando il duo. Prende la stecchetta per la viola, che sarebbe un violino molto molto grande. È un grande, sì. È arrivato qui con un violino. Ma non saprei se quello è un contrabbasso. Bisognerebbe appurare la grandezza del contrabbasso e paragonarla a quella del violino. Che secondo me se l'appoggia sul collo adesso per suonare. Ecco che escono i muratori con le impalcature per mettere il contrabbasso sulle impalcature per montarlo sulla spalla di Fabio Fuchesato. Ecco pronti il duo basso e sax. Basso. Al momento basso e campana tibetana qui a Nuova Ostia. Fantastici, fantastici veramente. Grigio scuro degli Oprachina qui a Anacra Radio Roma a Jazz al Teatro. Oprachina. Ormai hanno fatto, ormai sono andati ragazzi. Porta d'arce per voi, Oprachina. Fantastici, fantastici veramente. Qui a Natra Radio Roma abbiamo sentito gli Opera Ghina. Accendo il microfono, che dovrebbero sentirci, ma devi alzarti. Sì. Natra Radio Roma ringrazia gli Opera Ghina. Allora, Natra Radio Roma ringrazia gli Opera Ghina per aver partecipato a questo evento questa sera e io lo faccio per tutto il pubblico, chiediamo un bis, magari se battiamo le mani riusciranno fuori. Fantastici, fantastici veramente. Si stanno ripreparando per il bis qui sul palcoscenico del Faranume. E avevamo spento anche il faro al pittore, alla pittrice. Anche questa sera abbiamo fatto la nostra, abbiamo spento il faro alla pittrice. La pittante ha ripreso la luce per la sua tela in bianco e nero. Un sax, due persone, gli Opera Ghina sul palco. Poesia a Natra Radio Roma, ragazzi. Questa è poesia, ricordatelo, delirio. E soprattutto se mettete in mano noi il tutto, non è detto che arrivi alla fine. Delirio a teatro farà nome. Via!